Per noi il problema è sempre più serio, perché noi abbiamo in questi anni sviluppato una politica sociale importante, il sociale nel nostro bilancio incide per il 23%, e chiaramente le difficoltà innescate dalle ultime tre finanziarie, da questa in particolare, ci stanno portando vicino al taglio di servizi indispensabili. Io faccio un esempio banalissimo e demagogico che è passato in questa finanziaria, perché si è parlato di trasporto intendendo per trasporto le auto blu, invece in quella specifica voce sono inseriti per esempio anche gli scuolabus. Allora si dice che bisogna ridurre il costo delle spese di trasporto di un comune del 10%, in questo comune la macchina del sindaco è la mia e non prendo rimborso spese, quindi io le auto blu non ce l'ho. Il problema è che se riduco del 10% le spese nel 2005, le spese del trasporto, significa che da novembre in avanti non faccio girare più gli scuolabus. Il problema è che questa finanziaria va letta nella sua interezza e nella sua pienezza, è l'ennesimo attacco forte all'autonomia dei comuni e alla possibilità dei comuni di erogare servizi indispensabili alla gente proprio nel momento in cui la crisi economica evidenzia le necessità della gente. Noi siamo l'ente in prima linea, io ogni settimana ricevo 30-40 persone che non ce la fanno più, che non riescono a pagare l'affitto, che non riescono ad arrivare a fine mese, e pensare di ridurre i servizi essenziali in una situazione come questa è veramente una follia. Altro aspetto da raccontare: non è stato rifinanziato il capitolo per i libri, per finanziare i libri per le persone che hanno bisogno, i libri scolastici, che sono delle cifre importanti per le famiglie che hanno poco. Probabilmente quelli che fanno queste leggi non sono abituati a campare con 1000 euro al mese avendoci dei figli e pagando l'affitto. Questo è quello che mi viene a pensare. E i comuni che erano rimasti l'ultimo baluardo, l'ultima difesa dei più deboli, dei più poveri, in questo momento sono veramente messi allo stremo. Come faremo? Faremo cercando di controllare la più piccola spesa, ma ormai siamo arrivati all'osso, abbiamo ridotto le spese per la cultura vicino allo zero. Fra un po', se questa finanziaria verrà approvata in questo modo, probabilmente quest'anno saremo costretti ad andare ad intaccare i servizi nel sociale, e questo è di una gravità assoluta. Domani saremo tutti quanti a Roma e cercheremo di far sentire la voce per modificare almeno in parte il modificabile.